Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono delle città strane, forse perché al centro di una bizzarra confluenza di onde, vibrazioni, per cui succede che proprio in quelle città avvengano spesso cose che in altri luoghi succedono con minore frequenza o intensità. A esserne influenzate sono, come ovvio, soprattutto le genti del luogo. Nascono personaggi complessi, dotati, originali. In loro vi è una concentrazione particolare di talenti, capacità. Nel mezzo della pianura padana c'è una città che sembra godere di questa particolare concentrazione. È una città che sembra sorridere. È piccola, ricca, colta, golosa. Si chiama Modena. È un crocevia di strade, da qui si parte per il Brennero per giungere fino all'Austria, che nella nostra storia di oggi avrà una parte importante. Ma per il momento non spingiamoci troppo in là. Per il momento restiamo a Modena, proprio nella piazza centrale del paese, dove si staglia il Duomo, patrimonio dell'UNESCO, celebrato persino dal grande Dario Fo, che intorno ad esso costruì un vero e proprio spettacolo. È la prima volta che mi capita di ritrovarmi davanti a un tempio come questo e recitare, non usando il tempio come scenografia, ma come personaggio principale, lui, questa chiesa, questo straordinario monumento, parla in prima persona. Cultura potente, dunque, ma che a Modena acquista una leggerezza particolare. Si arricchisce di un tessuto insaporito da buoni cibi e irrorato da buoni vini, che contribuiscono a cercare, fra le pieghe del sapere, il godimento dei sensi. Forse perché è da qui che viene l'aceto balsamico, il lambrusco, il cotechino e il parmigiano. Questa città sembra avere eletto il gusto per le gioie terrene a suo indicatore di vita. E fra tutti i sensi, forse quello che merita di ricevere maggiori suggestioni è l'udito, perché qui sono nati grandi musicisti. Non si può sostenere che la concentrazione di cantanti a Modena sia allarmante, ma sicuramente anima degli interrogativi. Come abbiamo detto, deve esserci qualcosa nel cibo. Molti sono i cantanti di musica pop che negli anni 60 e 70 diventano famosi in tutta Italia. Caterina Caselli, Maurizio Vandelli degli Equipe 84, Francesco Guccini, Vasco Rossi, che in realtà viene dalla provincia, da Zocca, ma ha studiato a Modena. Eppure in tutto il mondo il nome forse più grande come i suoi famosi do di petto, è quello di Luciano Pavarotti, colui che ha reso la musica lirica un luogo frequentato anche da chi di lirica non ha mai capito nulla. Sarà stato, oltre alla maestria, il suo panama bianco calcato sulla testa, lo scialle colorato appoggiato sulle spalle, o la simpatia contagiosa, o quel famoso tocco emiliano di cui si parlava. Fatto sta che Lucianone ha fatto per il bel canto più pubblicità di chiunque altro. Quello che ha fatto al mondo della musica lirica Pavarotti è innegabile, ma non è l'unico. Forse meno roboante nei modi e nel carattere di lui, ma con una bravura pari a quella del famoso tenore, una donna, meravigliosa modenese anch'ella, ha donato alla lirica la sua stessa vita e la sua incredibile capacità canora. Questa donna, quest'artista, è la nostra prima protagonista di oggi. Il suo nome è Mirella Freni. Mirella Freni. Mirella Fregni nasce a Modena nel 1935. Il suo cognome, non adattissimo al palcoscenico, è la prima cosa che immola all'arte quando lo cambia in Freni. Figlia di una modesta famiglia di operai, nei primi mesi di vita viene allevata nella fabbrica di tabacco dove lavora la mamma Gianna insieme ad Adele, la mamma di Luciano Pavarotti. Durante le ore di lavoro, i due neonati vengono allattati dalla stessa balia, diventando così fratelli di latte. Però ci portavano le nostre mamme al bagliato, perché quando lavoravano le mettevano, c'era un reparto ed eravamo già vicini di lettini, io e Luciano. Sì, e poi così almeno raccontano le nostre mamme, questo non me lo ricordo. Però le mamme ci venivano a dare il latte negli orari che dovevano, però c'erano anche altre signore che si curavano di noi, di tutti questi bambini piccoli, e ce n'era una che aveva un bambino piccolo anche lei suo, e dice che ci ha dato del latte in aggiunta perché piangevamo sempre io e Luciano, che avevamo lo stesso latte a tutti e due, che avevamo sempre fame. Non sappiamo cosa ci fosse nel latte di quella balia sconosciuta che si offrì ai due bambinelli, ma visti i risultati, dovrebbe essere brevettato. I due bambini cresceranno diventando fra i più grandi cantanti della nostra epoca. E la passione è chiara fin da subito. Quando mi preguntavano che vado a essere da grande, de mayor, perdon che non hablo muy bien l'espagnol, sempre io dicevo la cantante di opera, non so perché, ma sempre lo teneva nella cabeza. Mirella ha solo 2 anni quando dice chiaramente alla mamma che il suo desiderio è di diventare una cantante, e non una cantante qualsiasi, ma di opera lirica. Ci sono bambine che sognano di fare le ballerine, e ci sono bambine che sognano lo stesso palcoscenico, ma con una carica e un'intensità tutte diverse. Anche loro si immaginano lì in mezzo, illuminate da un unico solo riflettore. Ma mentre un'orchestra potente suona un'aria, invece di sollevare una gamba verso l'alto, è il loro petto che si gonfia, i polmoni che si riempiono d'aria, e una carica esplosiva improvvisamente sembra prorompere dalla gola e la voce inizia a vibrare. Deve essere questo il sogno che si componeva nella mente della piccola Mirella, forse alimentato dall'atmosfera familiare. La nonna, Valentina Bartolomasi, era un soprano abbastanza conosciuto negli anni 20 e in casa la musica era un condimento usato con grande liberalità. Mi madre mi dice che chitava todos per escuchar opera, soprattutto il canto, e sempre mi ha affascinato moltissimo. E ora también, no solamente el mio instrumento, ma de verdad cuando puedo escuchar una persona que canta, una voz que bella, que tiene un color, io sto fascinada, es una cosa increíble que me entra dentro. Come racconta la stessa Mirella in un'intervista alla TV spagnola, fin da bambina abbandonava sempre tutto per ascoltare l'opera. Ascoltandola cantare su una registrazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti, uno degli zii riconosce subito il suo talento naturale e le inizia a insegnare i primi rudimenti della musica. Le prime note, quei primi segni su uno spartito, agli occhi di una piccola bambina, sembrano solo simpatiche formichine che si arrampicano su e giù sulle righe del pentagramma. Non c'è fatica nello studio, non c'è noia. È solo un gioco meraviglioso che rivela che ai piccoli semini distribuiti sulle linee si può accompagnare un suono e poi un altro e poi ancora un altro. E che la voce, condotta a mano da quelle note nere, può diventare meravigliosa, ora dolce, ora potente. Una scoperta che segnerà Mirella per tutta la vita. A 10 anni il primo debutto, Mirella canta a una competizione musicale l'aria imparata a orecchio, un bel di vedremo, della Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Il primo successo. Gilly mi escuchó que yo tenía 11 años y me ha dicho que pequeña, tú tienes una cosa de verdad importante, y no solamente la voz, se entiende que tiene una expresión. Yo estaba pequeña, pero ya yo pensaba de interpretar, no solamente cantar. Naturalmente me ha dicho, cállate un momentito porque estás muy joven, no se debe estropear la voz ahora, espera, y cuando será 15, 16 o 17 años, se puede ver si se puede empezar a estudiar el canto. Y yo ho rispettato la cosa che mi ha dicho. Il grande tenore Beniamino Gigli ascolta Mirella in un'audizione privata e, nonostante rimanga impressionato dalla naturale capacità della bambina, le consiglia saggiamente di non sforzare la sua voce. Mirella è una bambina ragionevole e soprattutto ben conscia del suo grande dono e segue il consiglio. Gli anni seguenti la vedono solo studiare con il maestro Ettore Campogalliani, già insegnante di Renata Tebaldi, Ruggero Raimondi e Renata Scotto. Sono anni di studio, mentre fuori dall'ordinata esistenza di Mirella l'Italia si sta faticosamente riprendendo dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Modena la Bella, Modena l'Allegra, attraversa uno dei suoi momenti più cupi, segnato dalla cruenta resa dei conti fra partigiani e fascisti. Mirella, intanto, si prepara per il debutto che avviene nella sua città nel 1955. Al Teatro Comunale, dove in tutti quegli anni da ragazzina si è accomodata fra le file dell'Oggione per seguire le opere preferite, finalmente è pronta per esaudire quel sogno infantile, essere su un palcoscenico, venire illuminata da un riflettore e aprire il petto al canto, come racconta in un'intervista data alla televisione francese. C'était en février del 55 e naturalmente j'étais émotionnée, mais un peu de peur, mais pas beaucoup, parce que c'était tellement la joie d'entrer dans le plateau pour chanter et de faire toutes les choses. Emozionata ma felice di cantare. Come non esserlo? Si canta la Carmen di Bizet al Comunale di Modena. Mirella e Micaela, la fidanzata del brigadiere José, il carattere dolce e positivo creato per essere contrapposto all'impeto passionale della zingara Carmen. Mirella si sente a suo agio nei panni di Micaela. Ha un carattere allegro, solare, tenace, poco abituato alle intemperanze. Forse crede così tanto al personaggio pensato da Bizet, che scrisse il libretto ispirandosi a un racconto del grande scrittore francese Mérimée, che anni dopo chiamerà la sua unica figlia con questo nome, Micaela. La Carmen non ha portato fortuna a Georges Bizet, che nonostante abbia scritto una delle opere oggi più amate dal pubblico, morì di cuore 3 mesi dopo la prima rappresentazione del 1875, a 37 anni, con la tristezza di vedere la sua creazione mai realmente apprezzata dai suoi contemporanei. Eppure menti altissime come Stravinsky e Nietzsche l'apprezzarono. Nietzsche non mancò di fare affermazioni importanti al riguardo. Tanto la Carmen si diventa noi stessi un capolavoro. A Mirella, invece, l'opera porta fortuna. All'epoca del suo debutto al Teatro di Modena non ha ancora 20 anni, ma le sue capacità vengono subito riconosciute. Al termine dell'esibizione, i vecchi amici del Loggione le offrono un grande cesto di rose gialle che la commuovono. Davanti a lei, dopo il successo ottenuto con la parte di Micaela, sembra che si spalanchi un futuro pieno di incredibili possibilità. Ma è all'amore che, fra tutte le altre chiamate, Mirella decide di rispondere. Leone Magera è il maestro di Mirella Freni. Ha di fronte a sé una brillante carriera come pianista e soprattutto come maestro di coro, diventando a soli 25 anni docente di questa materia al Conservatorio di Bologna. E dunque è un ragazzo serio, e quando chiede in moglie Mirella, anche se è giovanissimo, la sua richiesta viene accettata con grazia e naturalezza. E poi anche Magera è nato a Modena, e questo non è un particolare irrilevante. La comune appartenenza alla città emiliana crea un vincolo fortissimo fra i due artisti. L'amore di Mirella Freni per la sua città è una costante che, nel migliore dei suoi aspetti, le regala un equilibrio e una concretezza negli affetti e nelle scelte di vita che hanno contribuito a costruirne magnificamente il carattere. Io adoro Modena, non posso lasciarla perché sto bene lì e ho tutti i miei affetti là, la mamma ancora, grazie a Dio, i fratelli, sorelle, la figlia, i nipoti. Modena significa la famiglia, la musica, gli amici. Fra questi, come abbiamo già detto, c'è anche l'amico d'infanzia Luciano Pavarotti, che ai tempi insegna in una scuola elementare e studia canto ancora solo per diletto. È facile dunque immaginare il gruppo di giovani artisti ridere e chiacchierare mentre camminano spesso insieme la sera per la piazza della loro città, protetti dalle alte mura del Duomo. Nel suo aspetto negativo, però, l'amore per la sua città e quello per il giovane marito allontanano Mirella Freni dalle scene per un tempo considerevole, artisticamente parlando. 3 anni, in cui la novella signora Magera si dedica quasi esclusivamente a cantare solo le ninne nanne per la figlia. Occupazione encomiabile, ma leggermente sprecata per una donna dal talento vocale così grande. Per fortuna le cose prendono una piega diversa, e questa volta proprio grazie al marito Leone, che spinge Mirella a riprendere in mano la sua carriera d'artista. Non si può vivere giorno dopo giorno accanto a una donna così dotata e al tempo stesso amare così tanto la musica come il maestro Magera per non volere che anche gli altri possano godere appieno del talento della moglie. Nel 1958 Mirella Freni vince il prestigioso concorso Viotti e canta al Teatro Regio di Torino. Da quel punto è tutto un succedersi di parti che la vedono apprezzata in molti teatri italiani, fino ad approdare alla Scala, il teatro più importante d'Italia. È il 1962 quando Mirella Freni si inchina per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Scaligero, vestita da Nannetta nell'opera Falstaff di Giuseppe Verdi. Per Mirella questa è l'apoteosi. Cos'altro può desiderare la figlia della Gianna, l'operaia della fabbrica di sigari di Modena, la Carmen ante litteram che si portava dietro la sua bimbetta, sognando per lei un futuro meno faticoso del suo? A 27 anni, Mirella ha già cantato in molti ottimi teatri italiani e ha persino intrapreso brevi tournée in qualche festival europeo, ma sempre con la certezza che nella sua amata città d'origine il marito e la figlia la stanno aspettando con impazienza. Ma il destino, quando è in presenza del vero talento, ha spesso in mente brusche variazioni al copione apparentemente pacifico, concordato fra gli affetti e le aspirazioni contenute. Il destino, nel caso di Mirella Freni, ha occhi vigilissimi e dunque le sue prime prove alla Scala non passano inosservate. Colui che in quel momento viene definito il direttore d'orchestra generale d'Europa e che fa il bello e il cattivo tempo nei teatri più importanti del mondo, non solo alla Scala, ma anche a Berlino, a Vienna, viene colpito dalle capacità di questa ragazza e decide di giocare una parte importante nella carriera di Mirella. E con la stessa implacabile ricerca della perfezione che ha contraddistinto la sua vita, entra in quella della Freni sconvolgendola a tal punto che l'artista si vede sbalzare lontano anni luce dalla sua Modena per ritrovarsi proiettata nel firmamento delle grandi star della musica operistica internazionale. Destini incrociati. È il 1963. Destini incrociati è fra il pubblico a godersi la splendida esibizione di Mirella Freni, la giovane cantante che da Modena ha scalato il palcoscenico della Scala di Milano. Mirella è la Mimì della Bohème di Puccini. La regia è di un giovane Franco Zeffirelli. La direzione dell'orchestra, invece, è lasciata alle mani capaci del più grande direttore del momento. La Freni è emozionata. Sa che non si tratta solo di cantare al meglio l'opera di Puccini, ma di dare prova di sé, lasciar figurare un futuro all'uomo che in quel momento sta agitando la bacchetta davanti a musicisti attenti. Un futuro che potrebbe essere grande e spaventoso al tempo stesso. La giovane modenese sa che lui in quegli anni rappresenta il mito per tutti gli appassionati di musica e percepisce che ha intravisto in lei le potenzialità di una grande cantante. In cambio, richiede dedizione massima e soprattutto qualcosa che per Mirella può significare un grandissimo sacrificio. L'abbandono di un certo provincialismo, di una rassicurante possibilità di rientrare al più presto nel nido caldo che è Modena, la sua città. Un'operazione necessaria, che lo stesso maestro ha operato con se stesso, abbandonando la natia a Salisburgo per diventare un nome pronunciato con venerazione in tutti i più grandi teatri del mondo. Herbert von Karajan. Herbert von Karajan. Di accettarmi come Mimì alla Scala senza avermi mai vista. Immagino quanto fosse teso e curioso al tempo stesso di conoscermi. E quando arrivò il fatidico momento, io lo vidi e mi sembrò leggerli da subito nel pensiero. L'intesa fu davvero immediata, perché quando andammo nel mio camerino per l'audizione di prova, lui scelse distinto l'ultimo atto, quello che anch'io avrei scelto per capire il personaggio e la sensibilità dell'interpretazione di Mimì. Non mi ha fatto cantare l'aria, non mi ha fatto cantare i duetti, è andato dritto dritto all'ultimo atto, perché voleva proprio vedere se anch'io avevo capito fino in fondo il ruolo di Mimì. Mentre mi ascoltava cantare, vedevo che seguiva rapito e impallidiva. Poi a un certo punto mi guardò e mi disse: andiamo. Era fatta. L'intesa era stata perfetta. E pensare che fino a quel momento non ci eravamo neanche detti una parola. Mirella Frenni descrive dettagliatamente quel fatidico primo incontro con il maestro Karajan. L'intesa perfetta segnerà non solo le sorti di Mirella, ma in un certo modo anche quelle della musica lirica degli ultimi decenni, dando vita a un sodalizio artistico votato all'eccellenza. Ma da dove arriva quell'uomo che sta per cambiare per sempre la vita di Mirella? A 4 anni, le manine di un bambino, per quanto già affusolate ed allenate, provano difficoltà a raggiungere tutti i tasti del pianoforte necessari a suonare un accordo. Eppure nella vita del piccolo Herbert non c'è difficoltà che tenga. Alla sua giovane età ha già molto ben presente cosa vuol dire sacrificio, impegno, dedizione. Il traguardo sarà il primo concerto a soli 5 anni nella sua città, Salisburgo. Quando il 26 gennaio del 2006 a Salisburgo si festeggiano i 250 anni dalla nascita del suo cittadino più illustre, Wolfgang Amadeus Mozart, le campane di tutte le 35 chiese della cittadina suonano all'unisono le 8 di sera per celebrare l'occasione. Forse avrebbe potuto succedere lo stesso il 5 aprile del 2008, nel centenario della nascita di Herbert Ritter von Karajan, questo il nome completo del grande direttore d'orchestra. Chissà, forse per i 250 anni della sua nascita succederà. La sua è una famiglia originaria della Macedonia. Il bis bis bisnonno di Herbert, Georgios Johannes Karajannis, parte alla volta di Vienna nel 1767. Grazie alle grandi capacità commerciali, la famiglia di Georgios viene insignita del prefisso von da Federico Augusto III e il cognome viene germanizzato in Karajan. Herbert è una specie di bambino prodigio. Le sue capacità al pianoforte ne fanno uno studente modello del Mozarteum di Salisburgo, dove studia dal 1916 fino al 26. Ma nonostante le indiscutibili capacità, il livello raggiunto da Herbert al pianoforte non è tale da assicurargli l'eccellenza. Arrivò il giorno decisivo in cui mi resi conto che le due mani che avevo non erano sufficienti per esprimere quello che avrei voluto esprimere. E in questo momento difficile il mio amico e mentore da molti anni, il consigliere Pomgarten, mi disse: esiste solo una via d'uscita per te. Diventa direttore d'orchestra. È un momento di grande stordimento per Karajan. Il progetto di diventare un pianista di fama internazionale naufraga di fronte alla realtà. I sogni che fino ad allora sembravano essere la cosa fondamentale nella vita, la strada già segnata dal desiderio, non sono più attuabili. C'è lo sconforto, ma soprattutto c'è l'orgoglio ferito, la sensazione di avere buttato via anni di duro sacrificio, di uno studio che è dilagato in ogni piega dell'esistenza, trascinando via con sé l'infanzia, l'adolescenza. Ma le parole dell'amico insegnante Pomgarten lo scuotono. Se una persona di cui lui ha grande stima vede in lui la fiamma dell'arte ancora accesa, allora tanto vale provare a non buttare via gli anni passati e provare a convertire quel carisma che l'insegnante gli conferma di avere nella direzione d'orchestra. Karajan scopre ben presto che il suo maestro ha ragione. Con la direzione d'orchestra la sua vita sembra entrare in un nuovo ordine di cose e nel 1929 conduce per la prima volta la Salomè al Festspielhaus nella sua città natale. Quindi giunse il giorno in cui a Salisburgo mi trovai per la prima volta di fronte a una grande orchestra sinfonica e potei dirigere un concerto. E questo fu per me come giungere improvvisamente in un luogo lungamente anelato. Tutto si svolgeva in modo talmente naturale che capii, a partire da adesso, che tutto ciò avrebbe colmato la mia vita. Il lavoro con i musicisti diventa il suo principale interesse. L'affinamento della tecnica e del risultato diventano il suo credo. L'orchestra è una famiglia che ha un unico interesse: fare il lavoro il meglio possibile. Ed è bello che non esista nient'altro in quel momento. Io non ho mai avuto problemi perché ognuno sa quanto sia importante questo lavoro per il gruppo. Dal 1929 al 1934 Karajan diventa maestro di cappella a Ulm. Anni intensi di studio e lavoro, anni di grande rigore ed esattezza, in cui commette un unico, enorme errore. Nel 1933, mentre vive a Salisburgo e mancano ancora 5 anni all'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania avvenuta nel 1938, Herbert von Karajan diventa membro del partito nazista, il Camerata von Karajan. Non sono mai state chiare fino in fondo le ragioni della sua adesione al nazionalsocialismo. Molto probabilmente si tratta di un peccato niente affatto veniale di carrierismo, che lo ricompensa facendogli dirigere a soli 30 anni il Tristano e Isotta di Wagner allo Staatsoper di Berlino, mettendolo quasi allo stesso livello del maggiore direttore d'orchestra dell'epoca, Wilhelm Furtwängler. Von Karajan paga la sua scelta. A niente serve che nel 1942, nel pieno della guerra, sposi Anita Guterman, di origini ebraiche, e perda ogni appoggio politico dei nazisti. Fino alla fine della sua conduzione, i Berliner Philharmoniker non suoneranno mai in Israele e gli americani della zona A di Berlino non gli permettono di suonare nella loro zona fino agli anni 50. E ancora nel 1955 viene accolto davanti alla Carnegie Hall da manifestanti con cartelli con su scritto «Lei ha aiutato Hitler a sterminare milioni di persone». Ma a parte questi episodi, dopo essere passato sotto l'esame del Consiglio di denazificazione austriaco, von Karajan riprende la carriera, che in breve lo porta a diventare uno dei maggiori direttori al mondo. Tutti gli chiedono di dirigere, ma Karajan sceglie con cura i progetti su cui impegnarsi. Il progetto che mi interessa, questo mi prende, mi cattura fino in fondo al mio cuore e ho bisogno di almeno 6 mesi di intenso lavoro per portarlo a termine. Questa è la mia idea di un lavoro ben fatto. Nel 55 diventa direttore a vita della Filarmonica di Berlino, un onore incommensurabile. Nel 57 diventa direttore del Teatro di Vienna, un periodo che Johann Hollander, all'epoca famoso baritono, in seguito grande impresario teatrale e futuro direttore artistico dell'Opera di Vienna, ricorda con grande nostalgia. Ryan, l'Opera di Vienna tornò ai fasti di un tempo. Ci furono cambiamenti enormi nel funzionamento del teatro. Introdusse la lingua originale. Questo mar rosso mi ammollisce assina. Di lui, nell'opera viennese, cantavamo solo in tedesco, da almeno un secolo. Mahler faceva cantare tutto in tedesco. Karajan, invece, fece cantare tutti in italiano. Che gelida manina, si lasci riscaldare. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1963, quando il più grande direttore d'orchestra dell'epoca, Herbert von Karajan, conosce il soprano Mirella Freni e ne comprende immediatamente il talento e le capacità, decidendo rapidamente di trasformarla in una stella di prima grandezza. Penso che il maestro Karajan fu la persona che mi aiutò moltissimo e ha comprendito benissimo la cosa che io tenia dentro e che poteva farla e sin forzarmi moltissimo mi aiutò a svilupparmi, no? Desarrollar, ecco. Karajan è al vertice della sua carriera e quando decide di occuparsi del destino di una giovane ragazza italiana lo fa con la sicurezza non solo del grande musicista ma anche dell'uomo di mondo che si esibisce da anni nei più grandi teatri europei e americani e che accende passioni anche grazie allo stile che sa imporre. Diventa un mito a cui si dedicano persino allegre canzoncine. Dirigeva Karajan, tra i musicisti non si diceva dirige Karajan, ma dirige il capo. Il direttore d'orchestra, o meglio il capo, è venerato e temuto al tempo stesso, come conferma il baritono Johann Hollander. Metteva un po' di timore, innocentemente e senza volere, semplicemente con la sua presenza. Comunicava con difficoltà, parlava in maniera confusa, poco, a volte incomprensibile, ma nessuno si azzardava a chiedere «Scusi, che ha detto?» Bello, con uno sguardo di ghiaccio e una compostezza che rivela l'educazione aristocratica, Karajan ha carisma, piace alla gente normale e con le sue abitudini eccentriche incute soggezione ai suoi collaboratori come Olender. Ricordo ancora che la targa dell'auto era 151. I numeri a tre cifre erano una rarità a quei tempi. Veniva vestito col frac. Arrivava con l'auto all'entrata degli artisti e subito si dirigeva verso il podio, sempre all'ultimo minuto. Col tempo ci eravamo abituati, ma al principio pensavamo che non venisse o che avesse dimenticato il concerto. Karajan sa che con il talento, per quanto alimentato dall'applicazione e dallo studio, si arriva sia alla perfezione stilistica, ma che questa porta con sé anche la fama a livello internazionale, l'esposizione a un mondo di primissimo livello che comporta scelte di vita. Grazie a lui, Mirella Freni viene spinta verso nuove conquiste, nuove sfide che la costringono a tirare fuori tutto il meglio da se stessa. E i risultati arrivano. Dopo aver cantato ancora la Bohème all'Opera di Vienna e per il film diretto da Franco Zeffirelli, nel 1965 avviene il grande balzo in avanti della carriera di Mirella Freni, sempre sotto la stretta guida di von Karajan, il debutto al Metropolitan di New York. Il critico Alan Rich del New York Herald Tribune scrive queste parole. Voce pura e fresca, senza una sbavatura, meravigliosamente colorata in ogni momento, con quella che sembra essere una risposta istintiva alle richieste del testo. Il successo è grandissimo. Molti definiscono Mirella Freni la donna che Giacomo Puccini sognava. Grazie alla sua Bohème viene consacrata fra le grandi stelle. Una grandezza che le viene riconosciuta dopo anni e anni di carriera, anche di insegnamento. L'attuale direttore della Scala, Stefan Lissner, è sicuramente uno dei suoi fan più entusiasti. Giovinezza, un carattere, una vitalità in lei assolutamente straordinaria. Si comporta come una ragazza su tutti i livelli. Vale a dire che è vivace, anche nel rapporto che ha con i suoi studenti, il rapporto che ha con il teatro, e lo si vede in come si comporta in generale. Davvero, ha entusiasmo, una presenza e al tempo stesso ha carisma. A partire dagli anni 70, la Freni, consigliata da Karajan, inizia ad affrontare anche ruoli più drammatici. Don Carlo, Otello, Ernani. Il successo la accompagna in tutti questi anni senza mai conoscere una sosta. Eppure Mirella non dimentica chi è e da dove viene, riuscendo persino a dare una piccola lezione di modestia al suo ammirato Karajan, che la ricorda sempre con affetto. Mirella Freni è un'artista che ha fatto tutto quello che ha potuto per rimanere com'era. Un essere umano semplice con un grande cuore. Mirella continua la sua carriera, che culmina con una trionfante celebrazione nel 2005 al Metropolitan per il 40° del suo debutto con la Bohème. Karajan continua a dirigere la sua orchestra negli anni 80, raggiungendo livelli di eccellenza straordinari. Invecchiando, iniziò a dirigere in maniera quasi mistica. Due o tre anni prima della morte diresse il Requiem di Verdi come si potrebbe interpretarlo in paradiso. Tutto il carattere salvifico che contiene quel Requiem lo tradusse quasi in un sogno di bellezza e melodia. Il maggior critico musicale tedesco, Joachim Kaiser, considera la produzione finale di von Karajan come quasi una forma di religione. Un misticismo che trova riscontro nelle parole dello stesso maestro. Il più alto è che uno consideri la sua professione come una vocazione. Nel 1987 dirige uno dei suoi ultimi concerti. Sedute in una delle prime file ci sono la terza moglie Eliette con le due figlie Isabel e Arabella. Quello che succede quel giorno ce lo racconta la stessa Arabella. I miei ultimi ricordi fu il concerto di Capodanno a Vienna. Già soffriva e si muoveva con difficoltà, tanto che uno dei musicisti lo accompagnò sul podio. Ma nel momento in cui iniziò la prima nota, fu come se ci fosse stato una specie di lifting. L'espressione si aprì, tutto il male scomparve. Von Karajan muore nel suo chalet di Hanif, vicino Salisburgo, il 16 luglio del 1989. Ma il suo testamento morale lo ha già sussurrato al termine del concerto di Capodanno appena menzionato. Cari amici della musica, La Filarmonica di Vienna e io vi auguriamo tutto il meglio che si possa immaginare e soprattutto una cosa che, e credo che sarete tutti d'accordo con me, sia quello in cui speriamo tutti. Pace, pace e per sempre pace. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.